Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La Cassazione mette la parola fine al maxi processo sul crack della Banca Popolare di Vicenza. Ulteriore sconto di pena per Zonin, condannato a 3 anni e 5 mesi. L'omicidio di Fontana Fredda, udienza di convalida questa mattina a Treviso e Pordenone per l'uomo che ha sparato a Vladimir Topiana e per il padre. Si attendono le decisioni dei due GIP. Le elezioni comunali, ultime battute della campagna elettorale. Salvini questa mattina al mercato e all'Interporto di Pordenone, domani arrivano Schlein e Gasparri. La paura dei dazi americani, gli Stati Uniti sono il primo mercato per le esportazioni di mobili dalla regione. Snyder o dal Salone di Milano, l'errore più grande è farsi prendere dal panico. Lo sghiaiamento del lago di Barcis fa discutere il progetto di portare a monte invece che a valle altri 80.000 metri cubi di materiale. La condizione di bambini e adolescenti qui è migliore che in altre aree del paese, ma aumentano fumo ed episodi di violenza. Oggi la presentazione del rapporto sui diritti dell'infanzia. Partita questa mattina a Trieste la campagna informativa Metti in moto il cervello, promossa dall'associazione The Banfield per la prevenzione della demenza. La 21esima edizione del premio Terzani sarà dedicata alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti palestinesi uccisi a Gaza. Questa mattina l'annuncio della presidente della giuria, Angela Terzani. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Letti. La Corte di Cassazione ha dunque messo la parola fine al maxi processo sul crack della Banca Popolare di Vicenza a 10 anni dall'inizio dell'inchiesta, con una sentenza resa nota ieri in tarda serata. L'ex presidente dell'istituto Gianni Zonin, ieri non presente in aula, ha ottenuto un ulteriore sconto di pena rispetto al processo d'appello, con una condanna definitiva a 3 anni e 5 mesi di carcere. Stessa condanna anche per l'ex vice direttore generale Andrea Piazzetta e sconti di pena anche agli altri 2 ex vice direttori generali, Emanuele Giustini e Paolo Marin. Per il dirigente preposto al bilancio, Massimiliano Pellegrini, la Cassazione ha disposto invece l'annullamento della sentenza d'appello con rinvio ad un nuovo processo. Gli imputati a vario titolo erano accusati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto, ma sulla vicenda che ha coinvolto anche decine di migliaia di risparmiatori in Friuli Venezia Giulia sentiamo il commento di Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi. Sono state confermate le condanne a Gianni Zonin e altri 3 degli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza per tutti i fatti che ormai da oltre 10 anni andiamo denunciando e cercando di provare. Il procedimento penale verteva essenzialmente sugli aumenti di capitale 2013 e 2014. Ricordiamo come molti ex azionisti di Banca Popolare di Vicenza fossero stati all'epoca indotti ad acquistare azioni a fronte di finanziamenti erogati dalla banca stessa per permettere alla banca di poter finalizzare questi aumenti di capitale richiesti dalla BCE al fine di consolidare il patrimonio. Una sentenza di certo non scontata, perché il procedimento penale poteva riservare altri colpi di scena, tra cui anche le prescrizioni. Insomma, grande soddisfazione. L'unica nota negativa è che sicuramente né Gianni Zonin né gli altri tireranno fuori 1 euro per andare a risarcire le vittime di questo crack che ha coinvolto il Nord-Est e non solo. Consumatori Attivi ribadisce la richiesta al governo di ripartire l'avanzo del fondo indennizzo risparmiatori di 300 milioni di euro tra coloro che avevano avuto accesso a questo strumento straordinario che è stato realizzato grazie alla determinazione della nostra associazione e di tante altre che si sono battute per i risparmiatori. Si sono tenute questa mattina, prima al Tribunale di Treviso, poi in quello di Pordenone, le udienze di convalida del fermo dei 2 uomini di origine albanese, padre e figlio, arrestati per l'omicidio di Vladimir Topiana, un connazionale di 43 anni. Omicidio avvenuto davanti al bar sport di Fontana Fredda dopo una lite. Ad ammettere di aver sparato è stato il figlio, Roger Sciotta, cittadino italiano di 34 anni. Questa mattina, davanti al GIP di Treviso, stando al suo avvocato Guido Galletti, avrebbe reso delle dichiarazioni spontanee. La decisione del GIP è attesa in questi minuti. Udienza di convalida dell'arresto, ma a Pordenone anche per il padre di Roger, Prang Shota, difeso d'ufficio dallo studio Botosso Masserut. Rush finale per la campagna elettorale per le elezioni comunali a Pordenone dopo la visita del ministro Salvini, che questa mattina ha incontrato i cittadini e la stampa, il mercato e i rappresentanti delle categorie economiche nella sede dell'Interporto. Domani sarà la volta di altri due big della politica nazionale. Alle 18 al Bar Posta arriverà il senatore di Forza Italia ed ex ministro Maurizio Gasparri, mentre in serata alle 21 nel chiostro della biblioteca ci sarà l'intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico Eli Schlein. Nel corso della giornata Schlein e Gasparri parteciperanno a due eventi elettorali anche a Monfalcone. Il senatore forzista sarà alle 15 al gazebo di Piazza Repubblica, mentre la leader del Partito Democratico incontrerà i cittadini alle 19 in Piazza Cavour. Dallo scorso anno, con un incremento di oltre il 13%, gli Stati Uniti sono il paese nel quale ha esportato di più il settore del legno arredo del Friuli Venezia Giulia, un settore che equivale a 4 miliardi e 600 milioni di euro. Siamo la terza regione per fatturato. Le imprese sono oltre 1.600, mentre gli addetti superano le 18.600 unità. I dati vengono dal Salone del Mobile di Milano, dove ovviamente ha tenuto banco il tema dei dazi imposti alle aziende straniere dal presidente Trump. Le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti vanno difese a spada tratta, ha detto il presidente del cluster legno arredo Eddie Snydero. Se siamo tra le regioni che portano di più verso quel mercato, vuol dire che i nostri prodotti sono particolarmente apprezzati. Sottovalutare il problema sarebbe un errore, ma l'errore più grande è farsi prendere dal panico, ha detto ancora Snydero. Ci sarà un impatto, ma più un'azienda ha una identità e meno l'impatto sarà importante. Il cluster ha un ruolo importante in questa fase per supportare le aziende più piccole spingendo su mercati alternativi. A Milano era presente anche l'assessore alle attività produttive della regione Bini, che ha invitato tutti ad avere sangue freddo e a mantenere la calma. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto Bini, farà in modo di difendere le sue esportazioni, ma ricordiamoci che siamo ancora in una fase di trattative. Nuovo incontro stamane del laboratorio Lago di Barcis per cercare una soluzione all'annoso problema dello sghiaiamento. Fa discutere il progetto di portare a monte, anziché a valle, altri 80.000 metri cubi di materiale. Mentre in fase di ultimazione lo sghiaiamento d'emergenza con il trasferimento a valle di 100.000 metri cubi di ghiaia prelevati tra il Rio Arcora e il Varma, tra i punti più critici della viabilità in caso di eventi meteo avversi, e portati a Ravedis utilizzando il nuovo ponte, al tavolo del laboratorio Lago di Barcis fa discutere il progetto di portare invece a monte altri 80.000 metri cubi di ghiaia in località Pinedo, intervento che rientra tra quelli post vaia della direzione ambiente, che fa seguito al trasporto di altri 300.000 metri cubi di materiale utilizzato per opere di difesa spondale, soluzione che non piace ai comuni dell'Alta Valcellina. Illogico portare a monte la ghiaia scesa a valle, dicono, chiedendo di rivedere il progetto portando i detriti a valle, sottolineando che è stato realizzato proprio per tale scopo un nuovo e costoso ponte. Resta intanto ancora lontana una soluzione di lungo periodo allo sghiaiamento del lago, che comprenda anche un coinvolgimento del concessionario, con il quale la regione fa sapere di avere interlocuzioni in corso anche in vista della scadenza della concessione nel 2029. Barcis, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composto da oltre 100 organizzazioni del terzo settore, ha presentato oggi nella sede della regione di Udine la terza edizione del rapporto I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Come stanno le bambine e i bambini della nostra regione? Le risposte sono contenute nel rapporto I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentato durante la prima giornata nazionale dell'ascolto dei minori, celebrata nell'auditorium della regione a Udine e fortemente voluta da Carla Garlatti, la garante per l'infanzia e l'adolescenza. A presentare alcuni passaggi del report, Giorgio Tamburlini, pediatra, presidente del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini. Ci sono alcuni elementi di criticità, ad esempio segnalati da questo rapporto, per esempio l'abitudine al fumo, per esempio l'esposizione alle polveri sottili, però in realtà il problema più grosso dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine in tutta Italia e quindi anche in questa regione è un altro, che è il disagio, i problemi di comportamento, di apprendimento, la psicopatologia, tutti indicatori che sono in crescita. Ezio Bertossi, neuropsichiatra infantile ASU-FC, ha denunciato l'aumento dei disturbi alimentari. Per su cui anche questa regione ha attivato una riorganizzazione dei servizi secondo me molto oculata e anche che tenta di essere capillare. Da qui in poi però a che tutto funzioni come deve essere ci vuole ancora un po' di tempo, però le intenzioni ci sono. In merito al tema della protezione, minorenni stranieri non accompagnati presenti censiti in Friuli Venezia Giulia sono 682, tendenza in diminuzione rispetto al precedente rapporto. Il tasso di minorenni in affidamento familiare per almeno 5 notti la settimana è di 1,3 ogni 1000 residenti, valore leggermente inferiore di 0,1 punti rispetto alla media nazionale di 1,4, ma in aumento rispetto al precedente rapporto. Anna Barbui, Associazione Il Noce. L'affido si sta anche trasformando in più che nell'affido residenziale soltanto, in affidi diurni, ci stanno lavorando su progetti di vicinanza tra le famiglie, all'interno ad esempio una di queste formule è il progetto Pippi, si stanno cercando di incentivare i centri famiglia, sono tutti in divenire dove bisogna dare oltre che alla struttura poi anche un cuore pulsante. Udine, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, il cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 11 gradi, Gorizia 13,5, Pordenone 12,5, Udine 12, Tolmezzo 11, Tarvisio 10, Forni di Sopra 8, Sappada 4,5, Piancavallo 3,5, Montelussari 2, Monte Zoncolan meno 5 decimi di grado, Lignano 13, grado 11,5. Queste le previsioni. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e sulla zona montana sarà possibile qualche debole pioggia, specie sui settori occidentali. Quota neve a 1200-1500 metri circa. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile cielo variabile sulla zona montana. Venti a regime di brezza e temperature in lieve aumento. Oggi il nuovo questore di Trieste, Lidia Fredella, ha fatto il punto sull'attività della polizia nell'ultimo anno. Sentiamolo. È arrivata da poco, però si può già tracciare un bilancio di quello che è stato lo scorso anno, naturalmente di quelle che sono le criticità su cui dovete cercare di intervenire. Certamente, i numeri sono di solito indicativi fino a un certo punto, nel senso che poi i numeri vanno interpretati, però certamente io ho constatato nei numeri che sono stati espressi in una proporzione tra marzo 2023-2024 e marzo 2024-2025 un calo percentuale in alcuni reati che sono di solito di grande turbamento per tutti, per la cittadinanza, ma lo sarebbero anche per me, di turbamento, che sono i furti in appartamento, in generale nei furti, nei danneggiamenti, nei furti sulle auto, una diminuzione percentuale di quasi il 10% con una risposta maggiore nell'individuazione peraltro dei responsabili, quindi direi questo è sicuramente un dato positivo. Si può registrare certamente un aumento delle rapine, ma parliamo specialmente di rapine improprie, quindi parliamo di quelle piccole rapine che avvengono generalmente per la strada, però anche lì se l'aumento è di poco più del 10%, devo dire che la risposta è molto più alta, cioè sì, sono un po' aumentate, però sono aumentate anche le individuazioni dei responsabili. Quindi in questa parte direi che forse un pochino ci siamo compensati. Questo non vuol dire che non si comprenda l'allarme sociale che queste cose provocano, perché ovviamente avvenendo in mezzo alla strada è chiaro che le persone restano allarmate, però la risposta c'è. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo 10 anni al vertice della SIOT TAL, la società che trasporta il greggio dal porto di Trieste alle raffinerie del centro Europa, Alessio Lilli lascerà le cariche di presidente e amministratore delegato di SIOT e di general manager di TAL alla scadenza del mandato alla fine di giugno 2025. Lo sostituirà dal 1 luglio l'ingegnere chimico Alessandro Gorla, da 25 anni nei settori del petrolio, gas ed energia in Italia e all'estero. Gli azionisti hanno definito Lilli la pietra miliare dei successi di TAL negli ultimi 10 anni, che ha guidato l'azienda con integrità, lungimiranza e una profonda dedizione personale, protagonista dei traguardi significativi raggiunti dall'oleodotto transalpino. Da oggi a venerdì a Trieste 150 giovani ricercatori provenienti da tutto il continente discutono del futuro della ricerca europea sull'idrogeno. Si parla delle sfide rappresentate dal settore, dalla produzione allo stoccaggio, fino agli aspetti economici e normativi. Le principali sfide del settore, dalla produzione e dallo stoccaggio dell'idrogeno fino agli aspetti economici e normativi per un suo impiego come fonte energetica su vasta scala per imprese e cittadini, sono i temi al centro del convegno internazionale che raccoglie 150 ricercatori e dottorandi da tutta Europa impegnati nello sviluppo di soluzioni per rendere finalmente l'idrogeno una fonte di energia ambientalmente sostenibile e davvero utilizzabile su vasta scala. Presenti anche i rappresentanti di aziende del settore energetico interessati sia ai contenuti della conferenza sia ai profili dei giovani ricercatori partecipanti. In prima fila la regione Friuli Venezia Giulia all'interno del progetto transfrontaliero della Valle dell'Idrogeno dell'Alto Adriatico insieme a Slovenia e Croazia, che ha visto finora investimenti pari a 320 milioni di euro. Presentati in particolare 5 progetti finanziati dalla regione Friuli Venezia Giulia all'interno della cornice della Hydrogen Valley, progetti portati avanti dalle due università regionali, SISSA, Area Science Park, CNR, OGS ed Elettra Sincrotrone. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Adiconsum ha organizzato questa mattina a Trieste, nella sede della CISL, un appuntamento su come difendersi dalle truffe, fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale. Sala letteralmente piena, solo posti in piedi all'incontro organizzato da Adiconsum e Federconsumatori di Trieste sulla tutela dalle truffe online, vittime gli anziani ben consapevoli di essere il bersaglio preferito. Le è mai capitato di subire degli attacchi informatici? Attacchi informatici no, ma telefonate fastidiose sì. Hanno solo cercato di clonare il mio indirizzo mail, ma poi si è risolto chiudendolo. Io credo di aver ricevuto una segnalazione di un pacco non ritirato che non avevo mai ordinato e sospetto fortemente che fosse... Che cosa ha fatto di fronte a quel messaggio? Niente, ho cancellato. Ci sono malfattori che riescono ad inserirsi nella corrispondenza via messaggio con la propria banca d'appartenenza. Annalisa Bergamasco, Unicredit. Ci sono delle tecniche molto sofisticate che consentono ai truffatori di... camuffare il numero di telefono e inserirsi all'interno di una chat anche se non è la vera e reale chat. La cosa più importante da fare è sempre quella di non rispondere a questi messaggi, non chiamare nessuno, non cliccare su nessun link. Truffe sono anche quelle fatte da aziende di fornitura di luce, acqua e gas. Anna Buccofer, Adiconsum. Dei contratti che vengono stipulati all'insaputa della persona e che riesce a sapere di essere passato con un altro fornitore soltanto al momento che riceve la nuova fattura. A quel momento scopre: ma io non ho fatto niente, come mai, cosa, perché? Ma com'è possibile? Hanno detto di sì in qualche passaggio. Il più delle volte ritengo che questi call center recuperano dati, probabilmente forse anche di contratti precedenti. Una volta frodati, recuperare i soldi non è scontato. Luca Penna, ispettore di polizia postale. Molte volte gli intestatari dei conti che ricevono i soldi sono dei prestanome, ma non è in realtà il vero mandante della truffa. Ecco. Arrivare a riottenere i soldi è difficile. E se agiamo per tempo si riesce a bloccare il denaro e si riesce a recuperare, ma dipende molto dal truffato, dalla persona lesa, che deve venire subito a far denuncia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È partita oggi da Piazza del Perugino a Trieste la campagna informativa Metti in moto il cervello, promossa dall'associazione The Bounfield con il suo pulmino viola. L'obiettivo è la prevenzione della demenza e il supporto ai caregiver che si occupano di anziani con difficoltà cognitive. Sentiamo la psicologa dell'associazione Rosanna Palmieri. Quando si ha una diagnosi di demenza, a volte c'è la sensazione di non sapere cosa fare, ci si sente un po' spaesati. Ecco che noi cerchiamo di venire in aiuto dicendo che no, non si è spacciati, qualcosa possiamo ancora fare attraverso attività per la persona che ha difficoltà cognitive, ma anche per la coppia, quindi persona con difficoltà cognitive e familiare che se ne prende cura, ma anche per il solo caregiver. Spesso accade che proprio il caregiver subisce un grande peso, sente un grande peso legato all'assistenza. Ecco che Casa Viola, che è la sezione della The Bounfield dedicata alle persone con demenza e alle loro famiglie, viene loro incontro offrendo formazione, supporto, consulenze, cercando di stare più vicina possibile a chi assiste in modo che si sentano il meno soli possibile. possibili. La demenza di per sé è irreversibile, ma questo non significa che non possiamo fare niente. Una cura è possibile e le attività che noi proponiamo, per esempio, sono dei gruppi di musicoterapia, gruppi di stimolazione cognitiva, attività ludiche, ricreative, anche che puntano molto sulla socializzazione, che spesso è una delle più grandi vittime quando subentrano malattie di questo tipo. L'iniziativa Metti in moto il cervello è un'iniziativa promossa dall'associazione The Banfield con l'obiettivo di fare informazione e anche prevenzione. Quindi ci troverete dal 1 di aprile fino al 25 di giugno con 2 appuntamenti a settimana nelle diverse piazze di Trieste, ma anche in giro per l'ambito Carso Giuliano. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Viene dedicata alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti palestinesi uccisi a Gaza la 21ª edizione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito dal Festival Vicino Lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani. Lo ha annunciato oggi la presidente della giuria, Angela Terzani Staude, sottolineando l'urgenza di lanciare un allarme e, per decisione unanime dei giurati, di rendere onore al sacrificio di chi è stato messo a tacere e non può più raccontare l'altra parte della storia, conferendo così il Premio Terzani 2025 in memoriam ai giornalisti e alle giornaliste morti a Gaza. Dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco terroristico di Hamas, ha ricordato Angela Terzani rendendo nota la motivazione, sono oltre 200 i giornalisti, i fotoreporter e gli operatori della comunicazione che hanno scontato con la loro vita e spesso anche con quella dei loro cari l'impegno di testimoniare i fatti dall'interno e impedire una narrazione unilaterale e controllata. Divenuti bersaglio dall'esercito di Israele, nel giubbotto antiproiettile e nel casco con la scritta Press ha potuto proteggerli in flagrante violazione del diritto umanitario e della libertà di stampa. Mai nella storia il tributo pagato dal giornalismo è stato così pesante. La diocesi di Trieste non sosterrà più finanziariamente l'associazione privata che gestisce Radio Nuova Trieste, storica emittente di evangelizzazione per la comunità cattolica locale. Dopo un'attenta valutazione che ha coinvolto vari organi della diocesi, si legge in un comunicato, si è giunti alla triste conclusione che la situazione finanziaria della radio non consente più un supporto economico. L'importo annuale che la diocesi ha fornito all'associazione, pari a circa 120.000 euro, non è più sostenibile. Attiva dal 30 aprile 1985, Radio Nuova Trieste ha rappresentato un importante strumento di evangelizzazione e comunicazione per la comunità cattolica. Negli ultimi anni, tuttavia, come evidenziato dalle diocesi, si è registrato un calo degli ascolti e un incremento dei costi, fattori che hanno contribuito alla crisi delle emittenti radiofoniche cattoliche già in difficoltà a livello nazionale. La diocesi ha voluto esprimere particolare solidarietà ai dipendenti dell'associazione, in particolare ai tecnici, primi ad essere informati della situazione. Un impegno specifico è stato dedicato alla ricollocazione dei 2 dipendenti coinvolti, con la speranza che l'associazione possa individuare altre fonti di finanziamento per continuare la propria missione. Era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Daniele Lettige, in regia per la parte tecnica Mauro Cumin. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.